1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:17 minuti, forza cari italiani, italiani e non, cari debosciati. Ah, tra l'altro vi ricordo che stiamo raccogliendo, dopo lo straordinario successo di ieri, tutti coloro che ci ascoltano dall'estero e ci seguono in questo momento in diretta dall'estero. Scriveteci, scrivete una mail, 24mattino. È radio24.it, perché presto vi chiameremo in onda, uno di voi al giorno. Vogliamo sentire, percepire un po' questa italianità che c'è nel mondo. Ci hanno scritto dall'Afghanistan, dal Kazakistan, dalla Siberia, dalla Polonia, dalla Finlandia per ora, e continuano a scriverci. Scriveteci e noi vi chiameremo. Dal Canada anche, mi dicono, ci hanno scritto. Lasciateci il numero di telefono e poi noi vi chiameremo, eh? Allora, vi chiameremo in onda ovviamente, vi ospiteremo. Oggi avremo ospite il sottosegretario Antonello Giacomelli. Parliamo del canone Rai in bolletta elettrica e il progetto del governo, e parla il sottosegretario, ci spiegherà che cosa ha in mente il governo Renzi su questo. Poi avremo ospite il sindaco di Livorno Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle. A 6 mesi dalle elezioni è diventato anche famoso perché, tra l'altro, la giunta ha deciso di querelare un vignettista perché è una vignetta poco gradita alla giunta di Livorno. Ne parleremo dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. Giornali in questo martedì 25 novembre, che vi anticipo, sono come sono tutte le volte all'indomani delle elezioni, cioè il martedì. Paginate e paginate di analisi e di molto spesso inutile chiacchiericcio politico, almeno 10-15 pagine per i quotidiani più corposi dedicati a chi ha vinto, chi ha perso, che si fa, chi sale, chi scende, alleanze e non alleanze. Vabbè, intanto i titoli. Il Sole apre sulla borsa, BTP in rally, i mercati puntano sull'aiuto BCE. Sulla borsa, sulla finanza più che altro, mentre il Corriere della Sera ha un'apertura su Obama, mossa di Obama nella lotta all'ISIS, il presidente insoddisfatto licenzia il capo del Pentagono, cioè il ministro della difesa. Per il resto eccole qua: Repubblica, regioni, un terremoto elettorale, a rischio il patto Renzi-Berlusconi. La Stampa, Renzi-Salvini, parte la sfida. Il Messaggero, il crollo scuote Forza Italia. Il Fatto Quotidiano, la grande fuga. Libero, Salvini scala il centrodestra. Il Giornale, la verità sul voto a perdere. Avvenire, la vittoria mutilata. Il Manifesto, vai col liscio. E c'è la foto di Renzi. Il Secolo, affluenza, Renzi tira dritto. E così troverete un'analisi approfondita. Ma iniziamo da altre cose. Iniziamo per esempio da Ebola. Insomma, adesso ce l'abbiamo, il contagiato, il paziente zero, come lo chiama il Sole 24 Ore. È un medico di emergency, la cui identità è tenuta segreta, e si è ammalato in Sierra Leone, curando i bisognosi, e è rientrato nella notte, è arrivato a Roma, trasportato ovviamente con la massima sicurezza all'Istituto Spallanzani, dove c'è una struttura in grado di gestire questi casi. Raccontano tutti i giornali, per esempio, la telefonata alla figlia: tesoro, stai tranquilla. C'è un'intervista anche a Cecilia Strada, di presidente di Emergency, sulla Stampa, pagina 9. Mentre sul Corriere della Sera riescono a sentire con Felice Cavallaro la moglie. È un medico siciliano partito per la Sierra Leone. La moglie si danna per questo sfortunato epilogo, racconta: ha cercato di tranquillizzare le figlie, ma noi vogliamo rassicurazioni vere. Non abbiamo parlato con Gino Strada, ma con una ragazza molto gentile, lo dico senza polemica, eh? Avranno tutti tante cose a cui pensare, ma noi vorremmo notizie certe. Stavano scadendo i 3 mesi di aspettativa dall'ospedale, venerdì sarebbe tornato in Italia, insomma ce l'aveva quasi fatta. Ma signora, lei era contraria alla partenza? Risponde questa donna: è maturata in un momento particolare per la nostra famiglia. Mio marito è estroverso, occupandosi di malattie infettive, deve aver capito che era il momento di questa esperienza. Mi ha detto di stare bene, di non aver paura, di essere certo che se la caverà. Un padre, cosa volete che dica alle figlie? Chiederò alle autorità di sapere se passeranno settimane o mesi prima di rivederlo, ma so che nessuna esperienza, per fortuna, in questo campo. Invece l'esperienza la faremo noi. Ci sono, tra l'altro, sul Corriere il racconto delle 16 stanze del super reparto dello Spallanzani, da cui non esce nemmeno l'aria. Così, dicono gli esperti, conterremo il virus. E c'è un'intervista al ministro della salute Beatrice Lorenzin, intervistata da Carla Massi per Il Messaggero, trovate l'intervista a pagina 3, dice Lorenzin: il virus rallenta, gli sbarchi sono sotto controllo, comunque non c'è preoccupazione. Sono stata in contatto con l'associazione Emergency, mi hanno detto che la febbre si è abbassata, si idrata da solo, cammina senza problemi. La situazione, insomma, dice il ministro Lorenzin, è sotto controllo. Il paziente non avrà contatti né con i medici né con gli infermieri, tantomeno con la popolazione. Non c'è pericolo. L'ospedale Spallanzani è un centro di eccellenza a livello europeo. Questa è la vicenda Ebola. Mentre vogliamo saltare da una parte all'altra, raccontare quello che è successo in Turchia, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, e beh, complimenti al presidente turco Erdogan, che nel giorno precedente a oggi, e oggi è la giornata mondiale per la sensibilizzazione, la campagna per contrastare la violenza contro le donne, con che cosa se n'è uscito il presidente turco? Con un lungo discorso riassunto così dal Corriere della Sera: le donne non sono uguali a noi. Così Monica Ricci Sargentini, pagina 17 del Corriere, scatta la rivolta contro Erdogan. Il presidente turco dice: non possono ricoprire le stesse posizioni degli uomini. Ovviamente è partita l'ironia, le critiche in rete. È partito con un discorso, se volete, fisico. Gli uomini e le donne non possono ricoprire le stesse posizioni. È contro natura, perché sono diversi per indole e costituzione fisica. Una donna incinta non puoi dire: prendi una vanga e scava tutto il giorno. Però poi ovviamente se l'è andata un po' a cercare, no? Ha parlato di maternità, le donne insomma che devono stare a casa, le donne l'Islam ha definito una posizione per le donne nella società, cioè la maternità, due punti, la maternità, questo ha detto Erdogan. L'uguaglianza trasforma la vittima in carnefice e viceversa. Insomma, si è lanciato in un discorso nel quale si è avvitato sempre di più, evidentemente per gli ascoltatori, per i turchi e per i critici. È partita una serie di critiche notevole, come la scrittrice Shafak, una delle più famose, più celebri, che dice: protesto con tutto il mio cuore. L'autrice della Bastarda di Istanbul, Elif Shafak, ha reagito così all'illuminato e moderno discorso di Tayyip Erdogan. Vabbè, saltiamo a un'altra questione italiana. Sappiate che l'unità, il tormentone unità, è sempre più vicino alla conclusione. Questo almeno racconta Libero. L'editore Veneziani, Guido Veneziani, ex pubblicitario ora editore dell'omonimo gruppo editoriale, sta per comprare e fare l'offerta definitiva per l'unità. Lo racconta Franco Bechis su Libero. Il titolo, per la verità, non è molto... Eccolo qua. Pornodive e veline, future colleghe dell'unità. Beh, addirittura, perché insomma si va un po' a sfrucugliare l'attività di Guido Veneziani, che è editore anche di altre riviste per le quali collaborano, tra le altre, Eva Enger, ex Pornodiva, la soubrette Ana Laura Ribas, oltre a Lori del Santo, Loredana Lecciso, Maria Teresa Ruta, Alba Parietti, Justin Matera. Ho capito, cioè, ma su altre riviste, cioè, non è, quindi colleghe dell'unità, non è che collaboreranno per l'unità, collaborerà, che ne so, Eva Enger. Comunque, insomma, l'editore Guido Veneziani sta per comprare l'unità. Questo è, per la verità, un tormentone che continua da un po' di tempo, ma secondo libero. Ci siamo, ci siamo, siamo sempre più vicini. Sappiate invece che prima del premio Mani sul Volante le olive taggiasche si raccolgono sempre meno. È un problema, soprattutto in Liguria, ovviamente. Il maltempo ha ridotto la raccolta di olive taggiasche e quindi aumentano i furti in provincia di Imperia. I produttori ora dicono: faremo le ronde. Succede anche questo in Italia e la stampa vi dedica una intera pagina, pagina 19, Liguria, i predoni delle olive taggiasche, prodotto straordinario peraltro e evidentemente sempre più ricercato vista la penuria del raccolto. Ma siamo al premio Mani sul Volante e io rinnovo l'invito, mandateci una foto di voi con le mani sul volante. Ieri mi ha scritto: ma così inciti ai reati, ma ragazzi, ma fermatevi al semaforo, accostate la strada e fate una foto. Non è che uno gli deve mandare una foto mentre sta guidando col telefonino a rischio di fare un incidente. Su, siate un po' flessibili quando dico le cose. Vi accostate, oppure siete fermi, o state per partire. Prima di partire, quando vi siete fermati, fate una foto con voi, mani sul volante, e mandatecela o su Facebook, o sul profilo 24 Mattino, o anche via mail 24mattino@radio24.it. Pubblicheremo anche questa, ma il premio per l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata va a una tematica sulla quale lo Stato chiude gli occhi inspiegabilmente, o meglio, forse una spiegazione c'è, perché sono soldi da anni. Marco Menduni, prima pagina del secolo XIX. Azzardo di Stato sui malati di gioco. I malati di gioco, cioè i ludopatici, sono triplicati in 3 anni. I casi di ludopatia, di attaccamento patologico al gioco d'azzardo, sono in crescita esponenziale. Eppure una legge organica per finanziare in maniera stabile assistenza e cure ai malati di gioco arranca faticosamente in assenza di coperture finanziarie. Così il governo prova a inventarsi una TU. E cosa di meglio per provare a tirar su i soldi in breve tempo di una sanatoria? Non riuscendo a cavare un ragno dal buco nella vicenda delle sale scommesse che proliferano sul territorio, ma godono di concessioni rilasciate all'estero, soprattutto a Malta, l'esecutivo si affida alla più tradizionale delle ricette. Con 10.000 euro anche i point che dilagano nelle città e non hanno il bollino dei monopoli di Stato potranno continuare a raccogliere denaro e a rilasciare la ricevuta delle scommesse in massima tranquillità fino al 2016, offerta a prezzi stracciati, ma pochi, maledetti e subito. La scusa è sempre quella: ma serviranno questi soldi a finanziare la cura delle ludopatie? La verità, racconta il Secolo in questo reportage di Marco Menduni, che continua a pagina 8 e al quale ha collaborato anche Lorenza Castagneri, ebbene, che sono triplicati in 3 anni i malati di gioco. Solo in Liguria sono aumentati del 47% negli ultimi 2 anni le persone che si rivolgono ai CERT dicendo: siamo malati di gioco e vogliamo essere curati. Il governo, senza soldi per le cure, fa cassa con una nuova sanatoria sulle sale, tra virgolette, illegali. Evviva! Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Milan, il Ron Moss per informazione. Ah, vabbè, vabbè, il Ron Moss. Allora, cari ascoltatori, alle 7:35 minuti siamo qui a raccontare quello che c'è sui giornali. Paginate e paginate di analisi politica. Oggi ve le dovete cuccare tutte se comprate i quotidiani, almeno 10 o 12 pagine. Se trovate tutto ciò noioso, sappiate che non siete da soli. Però dopo le elezioni è così. E allora c'è Renzi che dice: l'affluenza è un problema secondario, vittoria netta, abbiamo sconfitto i disfattisti e andiamo avanti con le riforme anche se qualcuno si sfila. Un Renzi che però deve far fronte a questo livello di astensionismo mai raggiunto, soprattutto nell'Emilia Romagna. Pensate che 37,7% sono quelli che sono andati a votare. Tra l'altro il Corriere della Sera fa sapere che a Bettola, il paese di Bersani, invece, l'affluenza è stata, credo, del 23%. Ah, però, 23%. Comunque, l'affluenza è un problema secondario e lì via col dibattito nel PD. Secondo Miguel Gotor, bersaniano duro, invece, Houston, abbiamo un problema. Renzi, invece di esultare su Twitter, non sottovaluti il significato di questo voto, gli risponde Ernesto Carbone, renziano doc. Non per cattiveria, ma Gotor, lo sapevamo, non è abituato a vincere. E via, il dibattito all'interno del PD. C'è poi la FIOM che esulta, l'accusa di Renzi e di Bonaccini, neo governatore dell'Emilia Romagna, è questa: la FIOM ci ha boicottato. Effettivamente Salvatore Cannavò del Fatto Quotidiano va a intervistare chi? Tale Bruno Papignani, segretario FIOM dell'Emilia Romagna, che ha preso il suo smartphone e su Facebook ha lanciato il suo messaggio pochi giorni prima delle elezioni. Fate una sorpresa a Renzi, non votate Bonaccini. E ora questo Papignani viene intervistato da Salvatore Cannavò e se la ride dal Brasile dove si trova. Lei ha fatto un preciso appello al non voto. No, no, più che un appello ho pubblicato una frase sul profilo Facebook. Non votate Bonaccini, a quanto pare la gente mi ha seguito e ride. Poi in realtà Bonaccini è stato eletto. Comunque, insomma, a mente fredda che ne penso? Penso che Renzi verrà presto rottamato. È stato sconfitto. Così parlò Bruno Papignani, segretario della FIOM in Emilia Romagna, al Fatto Quotidiano. Il sottosegretario Graziano Del Rio rilascia invece un'intervista ad Avvenire, pagina 5, dice: ricuciremo questo strappo. Effettivamente, dice Del Rio, quando i cittadini non vanno a votare è sempre un problema, non solo per i partiti ma direi per la società. Esordisce così in questa intervista a Roberta D'Angelo su Avvenire. Sicuramente la competizione era limitata a due regioni, non c'è stato un traino nazionale, comunque un segnale da non drammatizzare, neanche da sottovalutare, così dice Del Rio, che poi parla della manovra, difende la manovra che non è stata una manovra di tasse ma di diminuzione fiscale, e dice: con le politiche familiari e con il lavoro ricuciremo questo strappo con gli italiani. Insomma, la stampa la vede così a pagina 2, 3, 4 e 5. I due vincitori, Matteo e Matteo, Renzi e Salvini. I due perdenti, Silvio e Beppe, Silvio Berlusconi e Beppe Grillo. Sì, perché dall'altra parte Renzi, a parte il dibattito con il PD, vede un Matteo Salvini che, secondo Libero, scala il centrodestra. E guardate che questa vittoria, comunque questa affermazione elettorale di Salvini, può cambiare che cosa? Soprattutto il patto del Nazareno. Ne è sicuro Libero. Salvini può uccidere il patto del Nazareno e ne è quasi certa anche Repubblica. Pagina 2 e 3. Claudio Tito. Il patto del Nazareno ora rischia di saltare. Perché? Ma è semplice, perché Salvini è sempre più forte, Salvini non è certo uno che approva il patto del Nazareno, Berlusconi è sempre più debole politicamente parlando. E allora Renzi, racconta Repubblica, ieri ha reagito così: io mi sono stancato di trattare e di farlo con tutti, così diventa una palude. E la prima vittima, al momento invisibile, non ufficiale, potrebbe essere il patto del Nazareno sul punto di sbriciolarsi. Renzi l'avrebbe detto a Verdini: vado avanti con voi o senza di voi, di certo non accetto la palude e non staremo dietro alle fobie di Brunetta. Come dire, se Forza Italia rischia l'implosione, noi andiamo avanti. Che succederà al patto del Nazareno? Puntata numero 8360 prossimamente su questi schermi. Di certo oggi Berlusconi farà un ufficio di presidenza e se la vedrà con Fitto. Fitto è il suo rivale politico interno al momento più forte, uno che chiede di azzerare tutte le cariche e il retroscena del Corriere della Sera firma Paola Di Caro a pagina 8 è emblematico. Berlusconi avrebbe reagito così: ma che dice Fitto? Non puoi dargli una mano che si prende il braccio. Io l'avrei incontrato pure se non avessi avuto l'uveite, ma lui è già pronto a spararmi contro. Non capiscono che mentre Salvini saltellava di qua e di là io non posso muovermi, non posso parlare liberamente, sono impedito ed è frustrante, umiliante combattere con le mani legate. Così Silvio Berlusconi, che ha fatto un casting di giovani nei giorni scorsi, ma dice il Corriere li avrebbe bocciati tutti, nessuno di questi lo ha convinto. Insomma, oggi se la vedrà con il partito in rivolta, questo è il titolo di pagina 6, partito in rivolta contro Berlusconi. E perfino Gasparri, intervistato da Repubblica, sempre a pagina 6, dice: se Silvio non si può candidare è bene pensare di ricorrere alle primarie. Ma lei parla come Fitto? Gli chiede Claudio Carmelo Lopapa. Sono un fiume carsico che compare e poi riaffiora. Ecco, Gasparri così si paragona a un fiume carsico. In difficoltà anche Beppe Grillo e il suo Movimento 5 Stelle, nonostante le rassicurazioni, anche il Fatto Quotidiano, giornale vicino certamente al Movimento 5 Stelle, titola così a pagina 6: 5 Stelle sprofondano, ma non vogliono ammetterlo. E c'è un'intervista al sindaco di Parma, Pizzarotti, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 5. Gli italiani stufi anche di noi. Mi aspetto un chiarimento da Grillo. Non si tratta di sposare una linea o l'altra. Mi piacerebbe un confronto. Lo invita, lo dice tante volte Pizzarotti. Gli italiani sono stanchi anche di noi. E alla domanda di Emanuele Buzzi: senta, ma Grillo è venuto a Parma prima del voto? Lei lo ha incontrato? Era in visita privata da amici? Non era una visita politica? Certo, diciamo che poteva segnalarmi la sua presenza, però. Ecco, Pizzarotti che neanche viene consultato da Grillo. Comunque noi avremo ospite alle 8.40 il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che anche lui è del Movimento 5 Stelle. Ha cercato di fare due chiacchierate anche sul Movimento. Ma prima c'è il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sono un po' preoccupato perché oggi c'è il consiglio di classe. Ah. No, non della scuola. Ah, no, no. No, no, no, no. Cioè, qualcosa. No, si riunisce la Commissione Europea. Ah. E i commissari, cioè i professori, insomma, devono dare questo famoso via libera, certo, delle finanziarie. Quindi, insomma, c'è il consiglio di classe, ci danno i voti. Ecco. Sai che c'è questa anticipazione che c'è stata sabato, insomma. Praticamente per sto giro la sfanghiamo, però poi a marzo vediamo. E niente, sto leggendo Beda Romano appunto sul Sole 24 Ore che dà queste anticipazioni sul consiglio di classe. Vediamo un po' che cosa ci dicono, specialmente il professore di matematica, quello lì, il finlandese, mi sembra abbastanza severo. Però anche la Francia, guarda, come diceva il poeta Consolazione dei poveri di spirito, avere compagni di sventura, anche la Francia non è che sia messa benissimo col debito. E quindi, insomma, speriamo che alla fine così ci rimandino tutti non a settembre ma a marzo, ma vedremo come andrà il consiglio di classe. Intanto tu metti da parte i conti correnti, se vuoi l'ISEE, sì, sai cos'è l'ISEE? È quello che sì, più certo, volgarmente si chiama riccometro. Il riccometro sta per cambiare radicalmente, lo stiamo raccontando in questi giorni sul Sole 24 Ore, cambia dal gennaio. Tra le cose che dovrai produrre è la giacenza media del conto corrente, un calcoluccio che per me, che sono sempre stato debolino in matematica, non è che mi spaventa un pochino, però pare che insomma ci sarà un accordo tra ministeri e le banche per darci dei prodotti già fatti in materia. Vedremo, perché poi il cambio dell'ISEE non sarà una passeggiata, caro Alessandro. Poi non dire che non te l'avevamo detto. No, infatti. No, perché poi tu mi sottovaluti di sé e dopo ti ritrovi lì che non te l'aspettavi. Poi Busa cerca 110 miliardi, nuovo vertice di Equitalia, tu sai che Busa è stato testé nominato appunto per Equitalia e ha rilasciato questa prima intervista al Sole 24 Ore. No, sono soldi che gli dobbiamo in qualche modo. Certo, anche tu. Ovvio, io sempre. Sono imposte non pagate, bisognerebbe pagarle, potendo, perché poi sai il periodo è tale che a volte non si può. Comunque c'è questa intervista di Marco Mobile e Giovanni Parente dove Busa spiega nel suo nuovo ruolo di Presidente Equitalia quali strategie ha in mente per Equitalia, che è un ente non facile da governare anche per l'immagine. Oh, e poi, caro, l'Inter, guarda che l'Inter fa scuola. Sì. L'Inter, sì, perché se tu leggi nelle pagine di Finanza quest'oggi, vedi che il meccanismo di credito adottato dall'Inter e dal suo presidente Eric Zohir sta per essere adottato anche da altre squadre italiane. Viva l'Inter, forza Inter. Caspita, questa la teniamo però. Forza Inter, dai Inter. La teniamo e la mandiamo in onda poi per dileggiarti. Vabbè. Sappi che anche la tua squadra potrebbe essere interessata, ma lo scopriremo solo vivendo. Traffico. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. E allora, abbandoniamo la politica, il Corriere della Sera in realtà ha un'apertura sulla politica internazionale, sugli esteri. Per la verità sui giornali non troverete la notizia, che è una notizia di un paio d'ore fa, sulla quale ci sta aggiornando il giornale radio, vale a dire il fatto che, ricordate, a Ferguson, quando fu ucciso il 18enne nero Michael Brown da parte di un poliziotto bianco il 9 agosto scorso, beh, la notizia è che il gran giurì ha deciso di non incriminare, ripeto, non incriminare il poliziotto. Le prove sono insufficienti. Che è successo? Che Obama ha subito invitato alla calma, ha detto siamo in uno stato di diritto e quindi anche se c'è gente arrabbiata dobbiamo rispettare la decisione del gran giurì, ma già nelle strade americane si raccontano e si vedono immagini di proteste, polizia, fumogeni e disordini non di poco conto. Ma la notizia ovviamente questa non è sui giornali, ci sarà domani. Sui giornali invece il Corriere della Sera mette la notizia, pagina 2-3, del fatto che Obama ha silurato il capo del Pentagono, cioè il ministro della difesa Chuck Hagel, costretto a lasciare dopo le difficoltà americane in Iraq e in Siria. Era repubblicano, è repubblicano ed era sempre più isolato dalla Casa Bianca. Il presidente americano ha fatto un discorso insieme a lui dicendo che è stato esemplare, un veterano del Vietnam, lo ha elogiato dall'inizio alla fine. In realtà è stato un siluramento in piena regola. E questo le trovate come apertura del Corriere della Sera, pagina 2, interessante per l'analisi e capire anche che succederà ora con la nuova nomina e chi sarà a capo del Pentagono e dunque quale sarà la strategia americana all'estero. Mentre il Corriere della Sera sempre ha una notizia, pagina 23, l'ho letta solo su questo giornale, vale a dire il Papa che ha preso il telefono, sapete che è un'abitudine di padre di Papa Francesco, e ha chiesto scusa alla vittima di abusi. Parlo col signor? Sì, sono io. Chi parla? Buongiorno figlio, sono padre Jorge. Non conosco con nessun padre Jorge. Figlio, tranquillo, sono Papa Francesco. È una fortuna che quest'uomo, oggi 24enne, fosse fermo a un semaforo, racconta il Corriere. Stava in auto quando gli è arrivata la telefonata del Papa sul cellulare. Lui aveva scritto al pontefice per denunciare gli abusi subiti per anni da piccolo a Granada da un gruppo organizzato di preti pedofili. Una lettera indirizzata a Francesco che il quotidiano spagnolo El País ha raccontato ieri insieme a stralci di quella telefonata ricevuta il 10 agosto, un momento che questo ragazzo dice non potrò più dimenticare. Il Papa che lo chiama e gli chiede perdono in nome della Chiesa di Cristo per questo gravissimo peccato e gravissimo delitto e per manifestargli la solidarietà per le sofferenze patite e assicurargli che avrebbe fatto pulizia. Scrive il Corriere con Gianguido Vecchi, per la verità il Vaticano non conferma mai e ne smentisce le eventuali conversazioni private del Papa, ma la denuncia dell'uomo ha portato alla apertura di un'inchiesta giudiziaria all'arresto ieri di 3 preti e un laico che insegna religione. Dunque il Papa al telefono chiede scusa alla vittima di abusi. Mentre su Repubblica c'è questa notizia, è un'intera pagina. È ancora incredibile che accada, mai accaduto nel 2014, il giudice, l'autismo provocato dai vaccini. È una sentenza del Tribunale di Milano che riconosce il vitalizio a un bambino malato che aveva fatto l'esavalente. Il Ministero della Salute, raccontano Alessandra Corica e Franco Vanni, dovrà versare un assegno bimestrale per tutta la vita a un bimbo affetto di autismo a cui nel 2006 fu iniettato il vaccino esavalente prodotto da GlaxoSmithKline. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano, il giudice Nicola Di Leo, secondo cui sarebbe acclarata la sussistenza del nesso causale tra tale vaccinazione e la malattia, come si legge nel dispositivo della sentenza. C'è un'intervista, corollario dell'articolo, che Michele Bocci fa a Paolo Bonagni, ordinario di igiene a Firenze, massimo studioso di vaccini, che dice: è incredibile, la scienza dice che è tutto falso, si mette in correlazione la presenza di mercurio con l'autismo, cosa che nessuno aveva praticamente mai fatto prima d'ora, è una decisione antiscientifica. E lo stupore di questo docente è questo: il Ministero della Salute non farà ricorso contro la sentenza. Il professore dice: se davvero non c'è appello a questa decisione è un errore, è una sentenza che dal punto di vista scientifico è insostenibile e quindi sarebbe giusto contrastarla in ogni modo. In ogni caso, trovate su Repubblica questo dibattito molto molto vecchio. Ma siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince con Manila Alfano, il giornale che dedica una pagina intera allo stop al riserbo in stile KGB di Vladimir Putin, che per la prima volta, pensate, per la prima volta in un'intervista ha parlato delle sue figlie. Le vedo poco, ma sono fiero di loro. Ma chi se ne frega!